Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata, la prima della settimana di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, riprenderemo alcuni temi a cavallo del fine settimana, venerdì e sabato. Mi riferisco alla proposta, a questo punto definitiva, sulle pensioni da un lato, alla manovra dall'altro. Vedo già molti messaggi su Maresta, il ministro Padoan, ho visto anch'io indiscrezioni e così. Gossip, non c'è nulla, non c'è nessuna notizia ufficiale, quindi il ministro Padoan è il ministro dell'economia e finanze italiano. So che da qualche giorno si mormora di una possibile rottura, ma insomma, noi ci occupiamo di fatti, non di gossip. Invece un altro fatto, oltre alla manovra da 27 miliardi, riguarda la fusione BPM-BP e quindi Banco Popolare con Popolare di Milano, fusione ampiamente attesa, anche se soprattutto sul fronte da Milano c'era chi scommetteva in qualche sorpresa. Il plebiscito nei soci del Banco Popolare 99%, buona la maggioranza, anche se non così plebiscitaria nella Popolare di Milano, il 71% dei favorevoli. Ecco perché c'era chi speculava sull'ipotesi che alla Pop Milano non tutto potesse andare come previsto, ma tant'è. E oggi i titoli guadagnano, il Banco Popolare il 2,60%, la Pop Milano perde il 3,32%. Questo perché il mercato reputa, poi ne parleremo, abbiamo uno spazio apposito, più conveniente l'operazione per il Banco Popolare rispetto alla Pop Milano. Faccio notare che comunque all'Assemblea della Popolare di Milano erano presenti 5.500 soci, record storico per la banca, e nasce ufficialmente il terzo gruppo bancario in Italia, 170 miliardi di asset, 4 milioni di clienti, capitalizza circa 4 miliardi con una quota di mercato dell'8,2%, è primo in Lombardia con una quota di mercato del 15%. Per cento, ne parleremo, perché poi c'è tutto il tema degli NPL, quindi non performing loans, le sofferenze bancarie che questa fusione comunque raggruppa, diciamo così. Sappiamo che su questo fronte era messa un po' peggio il Banco Popolare rispetto alla Popolare di Milano. Ancora, per quello che riguarda invece le notizie di oggi, ci occuperemo, visto che parlavamo di borsa, anche come sempre dell'andamento. Oggi Milano è diversa dal resto d'Europa, in senso positivo guadagna mezzo punto percentuale, mentre Parigi perde lo 0,30, Francoforte lo 0,50, Londra meno 0,50 anch'essa, il Dow Jones meno 0,10%, euro in indebolimento a 1,09 nei confronti del dollaro. Fra i titoli, visto che ci troviamo il peggiore tra quelli a maggiore capitalizzazione, che è la Popolare di Milano, segnalo anche Campari che perde il 2,30, Recordati il 2,20, Ferragamo l'1,70%, mentre bene la Popolare Emilia Romagna più 3,20, Generali più 3,20, Leonardo più 3,1, Unicredit più 2,80 come Telecom Italia, Unipolsai più 2,30, Unipol più 2 come ST Microelectronics e Mediobanca. L'1,5 lo guadagna Intesa San Paolo e Atlantia. E dicevo, ci occuperemo anche dell'agenzia delle dogane, perché si è beccata il primo posto nella nostra classifica di venerdì per l'acquisto di un palazzo da 85 milioni, 73 milioni di euro. Ci ha chiamato il direttore, dice: non l'abbiamo ancora mai comprato, non l'abbiamo ancora mai deliberato, e ascolteremo anche che cosa dici, oltre che parlare anche dell'attività dell'agenzia doganale. Per quello che riguarda invece la manovra, daremo anche oggi un aggiornamento sui temi della manovra, domani torneremo, perché insomma stiamo cercando di capire quali siano le coperture su questa manovra. Alcune sono chiare, altre diciamo non così chiare o ancora non precise. 349-238-6666 per i vostri sms e whatsapp, e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Rapidamente le altre notizie in breve. Come sempre in apertura alle notizie di carattere internazionale e alcuni mi stanno già chiedendo ma perché i mercati oggi sono così incerti. Beh, allora ascoltiamoci 100 secondi di Radio 24 sulle 24 ore, se no come infatti oggi nell'appuntamento che viene trasmesso anche su RDS il vice direttore del Sole 24 ore Alessandro Platerotti. Il tema sullo sfondo restano le politiche delle banche centrali e soprattutto l'unica che è prevista a rialzare i tassi in maniera più o meno significativa tra 2016 e 2017, l'americana Federal Reserve. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 ore. Con Alessandro Platerotti. La settimana non si è aperta bene per i mercati finanziari internazionali dopo la settimana incerta e soprattutto dopo i dati economici che continuano a dare luce e ombre sul progresso dell'economia mondiale e soprattutto sul passo dell'inflazione. Oggi è stata una giornata di vendite generalizzate, soprattutto per i titoli di Stato che nell'arco dell'Eurozona hanno subito flessioni notevoli dei loro prezzi. Ma che cosa sta succedendo? Non ci sono grandi novità all'orizzonte se non una presa d'atto di un trend che continua già da qualche mese, ovvero il trend della paura che la Banca Centrale Europea e in parte anche la Fed, rialzando i tassi di interesse, possa sospendere quelle manovre di stimolo molto prima del previsto o quantomeno non accentuare l'arco di tempo in cui dovrebbe erogare liquidità per sostenere le banche e soprattutto la spinta dei prezzi. Il problema all'orizzonte resta, oltre la crescita naturalmente, quello dell'inflazione. Ma attenzione, dopo anni in cui non si vedeva all'orizzonte una variazione dei prezzi al consumo apprezzabile, gli ultimi dati, che riguardano sia l'Eurozona ma in particolare alcune aree dell'Eurozona, indicano una ripresa dell'inflazione, segno evidente che il QE sotto questo profilo sembra funzionare. Ma attenzione, se non sono basi comunicanti i mercati, se da una parte salgono le aspettative, dall'altra naturalmente scendono, e quando scendono in questo caso significa vendere tutte le attività più rischiose, mercato azionario e mercato obbligazionario, finché non si avranno maggiori segnali sui tempi che il Comitato Centrale della BCE darà a Draghi per continuare a pagare fino a marzo e poi staccare la spina. Insomma, i prossimi giorni saranno determinanti e sicuramente entro la fine dell'anno sapremo qual è il passo dell'economia e la possibilità di ripresa per tutti i paesi, soprattutto per i più deboli. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. E a proposito di paesi più deboli, oggi dalla Germania, mentre lo dico perché vi stanno aggiornando anche i nostri GR24, l'esplosione della BASF, secondo il portavoce della città, non ha nessun pericolo per la salute. Però la cosa interessante è che oggi c'è una certa polemica in Germania dopo un'intervista alla Zeitwelt da parte dell'ex presidente dell'istituto IFO, che sarebbe un istituto di ricerca in Germania molto importante. Lui si chiama Hans Werner Sinn ed è da sempre un falco, uno molto critico con i paesi del sud, con l'Italia. Lo dico perché la premessa è necessaria, perché questo Sinn ha detto: la probabilità che l'Italia resti a lungo parte dell'euro diminuisce di anno in anno, e l'Italia non riesce a cavarsela con l'euro. L'economia italiana non è competitiva, non ha intrapreso negli anni scorsi alcun misurabile sforzo per tornare a essere competitiva. Io non penso che l'Italia dovrebbe uscire dall'euro, ma perché possa rimanerci avremo bisogno di altre condizioni. Mi chiedo davvero quanto l'Italia possa resistere nell'euro. Ringraziamo per l'attenzione e diciamo per la sensibilità, la preoccupazione di Sinn. Faccio notare che il governo tedesco ha subito poi smentito e ha detto di non condividere l'opinione che l'Italia non possa restare a lungo nell'euro. E lo ha detto il portavoce di Angela Merkel oggi, Stefan Seibert, rispondendo a una domanda proprio sull'intervista pubblicata sulla Welt, e non ha voluto commentare altro. Devo dire che insomma, per certo che di tutto si può parlare, se sembra un tema diciamo tranquillizzante l'ipotesi che l'Italia possa uscire dall'euro, voglio dire, allora potremmo porre il tema se alla fine dentro questo euro non resterà solo la Germania con qualche paese satellite. Ancora, per quello che riguarda la manovra invece, intanto una nota: quello che oggi riferisce la Banca Europea degli Investimenti, che nei primi 18 mesi di attività il piano Juncker in Italia ha consentito la conclusione di 55 operazioni, prestiti, garanzie, equity a livello di gruppo BEI per un valore di 3,8 miliardi e l'attivazione di investimenti per 21 miliardi, un settimo di tutti gli investimenti attivati riguarda il nostro paese. Nel frattempo il governo italiano non ha ancora inviato a Bruxelles il documento programmatico di bilancio, cioè la legge finanziaria, per come l'abbiamo raccontata, si chiama Draft Budgetary Plan, e tra l'altro dove ha tutte anche, dovrebbe avere e contenere tutte le stime del DEF. Oggi infatti il portavoce della Commissione Europea ha detto: l'Italia non è tra quei paesi di cui abbiamo ricevuto le bozze di legge di bilancio, la scadenza ultima è spostata a oggi, a fine giornata, dal 15 ottobre inizialmente previsto, ma insomma oggi, da quello che capisco io, deve arrivare sta bozza. La manovra nel frattempo sale a 27 miliardi di euro. Tra le ultime novità, lo ricordo che si fosse perso le puntate precedenti, novità intervenute sabato, niente tagli alla sanità, chiusura di Equitalia, quindi la riscossione delle imposte non pagate passa all'Agenzia delle Entrate, e la rottamazione dei ruoli, bisogna pagare tutte le imposte sostanzialmente dovute e sanzioni, ma non gli interessi e la mora. La dotazione per il pacchetto di previdenza sociale sale da 6 a 7 miliardi in 3 anni, 15 miliardi di euro in 8 anni per gli investimenti, conferma del taglio IRES dal 27,5% al 24%. Punto è, lo dico senza voler fare polemica, sulle coperture. Allora, la spending review viene stimata a gettare, come si dice in gergo, cioè portare 3,3 miliardi, e già su questo spending, lo sappiamo, è una bellissima ambizione. Poi la rendicontazione, cioè quando vai a fare i conti dopo, ti rendi conto che non sempre abbia portato questi benefici. Comunque 3 miliardi e 300 milioni devono arrivare dalla spending review. Il deficit già previsto era di 6,2 miliardi, deficit aggiuntivo per ulteriori coperture sono 7 miliardi. Rottamazione ruoli 4 miliardi, voluntary disclosure bis 2 miliardi. E allora mancano alcune altre voci sulla quantificazione. Le uscite sono: sterilizzazione dell'aumento dell'IVA sono 15 miliardi, fondo sanità 2 miliardi, perché la dotazione complessiva sale a 113 miliardi in 3 anni, investimenti pubblici 2 miliardi, rinnovo del contratto pubblico impiego 2 miliardi, terremoto e interventi di qualificazione 2 miliardi, sostegno alla famiglia 600 milioni, estensione della 14ª delle pensioni, aumento della no tax area, non sappiamo ancora quantificare quello che sarà l'uscita. Qualcuno mi chiede: ma come fa a mettere il deficit nelle entrate? Sì, il deficit è nelle entrate perché diciamo l'Europa ti permette di avere un certo deficit, e a noi ha permesso anche di avere un ulteriore deficit, e tu te lo usi come se fosse un'entrata. So benissimo che non è un'entrata vera, che prima o poi dovrà ripagarla, ma a livello di manovra di stabilità quello fa parte dei soldi che hai a disposizione. Le uscite sono quelle che ho appena ricordato. Il Presidente del Consiglio ha detto: sono le ore della legge di bilancio, non sono soldi buttati a casaccio, è necessario pompare denaro verso l'economia, c'è un disegno organico, e il senso della legge di bilancio di quest'anno, come si chiama adesso la legge finanziaria, è quello di mettere nelle condizioni chi può fare di farcela. È un po' il senso anche di questa legge di bilancio di quest'anno, mettere in condizione chi ci vuol provare di farcela, e contemporaneamente però andiamo a guardare al futuro con lo stesso sguardo innamorato sul nostro paese, che da noi c'è spesso, ma non sempre. Noi abbiamo approvato una legge di bilancio sabato, una legge di bilancio che permette alle aziende di investire in particolar modo in competitività e crescita, la 4.0, l'industria 4.0 vede finalmente dei denari pronti ad essere spesi, ci sono gli spazi per tutti per poter finalmente tornare a investire se gli imprenditori, anziché metterseli in tasca, mettono i soldi nell'azienda, ci sono incentivi reali, ma c'è bisogno di un paese che torna a credere al futuro. 300 o 360 Caravaggio, il continuo investimento, la nuova sede, la nuova area per formare meglio il treno di alta velocità, tutto quello che stiamo cercando di fare va nella direzione di dire che l'Italia non è soltanto un passato, ma è anche e soprattutto il futuro. Vi auguro di poterlo vivere a testa alta come noi toscani sappiamo fare e vi auguro di viverlo con la consapevolezza che il tempo della paura è finito, c'è un progetto, c'è un investimento, c'è da lavorare duro, ma quello non ci ha mai fatto paura. Sì, il riferimento alla parte ferroviaria, perché il secondo passaggio di Renzi è stato il suo intervento a Pistoia alla Hitachi Rail, ma faccio notare che oggi ero ospite di Radio 24 e nello specifico di Giovanni Minoli con Mix 24, il ministro dello sviluppo Carlo Calenda, il quale ha detto sull'Europa: sì, Bruxelles gioca con i numeri, ma alla fine farà passare la nostra legge finanziaria e da questo punto di vista... sì, c'è un po' di in qualche modo tatticismo, ma poi passerà la legge finanziaria. E poi vorrei ascoltare anche l'altro passaggio, magari li uniamo, in cui Calenda invece critica in maniera abbastanza pesante la segretaria della CGIL Susanna Camusso, definendola dicendo che lei disprezza, mostra un disprezzo antropologico verso l'imprenditore, come se non fosse un pezzo di società che crea crescita. L'Europa si divertirà e diletterà a giocare con i numeri, le singole misure, eccetera, perché questo è quello che fanno ormai, ma alla fine la manovra riduce il deficit rispetto all'anno scorso e c'è un sacco di investimenti, quindi io credo che passi. Senta, ma io le faccio una domanda più semplice ancora. In Europa, invece che discutere lo 0,1, lo 0,2 in più per mesi, non sarebbe meglio dire noi sforiamo del 3-4% per fare investimenti produttivi e chi se ne frega delle conseguenze? Ma sa, alla fine secondo me questa cosa è pericolosa per un paese che ha un debito così alto. Io sono rimasto veramente molto colpito, perché dentro la frase della Camusso c'è un disprezzo, io direi antropologico, verso l'imprenditore, come se l'imprenditore non fosse un pezzo di questa società, della nostra società, importantissimo perché crea crescita. Molto diverso dall'atteggiamento che abbiamo visto nella CISL e persino in Epifani, che è stato uno dei promotori di Industria 4.0. Quindi lei considera la Camusso fuori dal mondo sostanzialmente? Io considero questa frase della Camusso fuori dal mondo, ci riporta a epoche storiche che non ci piace rivedere. Ma allora, per essere chiari, con questi soldi che lei dice che sono tutti qua, torneranno i posti di lavoro? Torneranno gli investimenti, e torneranno i posti di lavoro e soprattutto tornerà una crescita di qualità. Ancora due notizie in breve che riguardano l'Istat. Oggi sia l'export, che oggi scopriamo che ad agosto sia le esportazioni che le importazioni sono aumentate, un aumento rispetto al mese precedente più 4,4% delle importazioni, più 2,6% le esportazioni, con un surplus commerciale, quindi un attivo tra export e import, per 2,5 miliardi, che è più alto di 600 milioni, non di poco, rispetto all'agosto 2015. Su base annua, a questo punto, il nostro export, pur con un rallentamento dell'economia mondiale, porta a casa agosto su agosto l'11,5% di rialzo, l'import più 9%, ed è l'aumento più forte anno su anno dal 2012, dall'ottobre del 2012. Il problema è che agosto non fa primavera, diciamo, nel senso che gli altri mesi abbiamo visto una debolezza sull'export. Infatti ancora complessivamente c'è un meno 0,1% come bilancio dei primi 8 mesi rispetto ai primi 8 mesi del 2015. Quando torna Sapelli? Che posso fare? Sapelli Show. E allora avremo il venerdì questo, venerdì dopo, o questo venerdì o quello dopo. Adesso lo riavremo ospite. 349-238-6666 per sms e whatsapp. E poi la pagina di Focus Economia sul sito Radio 24. Andiamo su meteo e pubblicità e poi partiamo con le pensioni, le fusioni bancarie e la borsa. State ascoltando un programma offerto da SwissQuote.it, un leader globale nel trading sul Forex. Focus Economia. I wanna be free, set free. 7:35 minuti. Allora partiamo col primo tema. Sabato scorso il Consiglio dei Ministri ha sì approvato la manovra, ma sapete bene che soprattutto è arrivato anche il, come d'accordo con i sindacati, un nutrito, lo raccontavamo prima, pacchetto pensioni che potrà contare nel triennio su 7 miliardi di euro, da quello che si è capito 1,5 miliardi, 2 miliardi per il primo anno. Nel frattempo però devo leggere una notizia di agenzia, perché l'ufficio parlamentare di bilancio, quello che creò la polemica perché non si riconosceva nelle stime sul PIL del governo 2 settimane fa, ed è quello che poi deve trasmettere come parte terza i dati, è una specie di vidimatore, certificatore, se vogliamo usare questa parola, dei dati, ce l'hanno tutti i grandi paesi, un ufficio che va a guardare le previsioni del governo sulla legge di stabilità e dice sì, ci tornano oppure non, oppure sono irrealistiche. Adesso ha dato via libera alla manovra ed è lui, se non ricordo male, che poi trasmette questi dati e via libera anche a Bruxelles. Quindi l'aggiornamento dei dati macroeconomici che portano il deficit PIL al 2,3% l'anno prossimo, con un PIL che cresce all'1%. Ma dicevo, sulle pensioni, 7 miliardi per fare che cosa? Tra le altre cose, la soglia di reddito per accedere gratuitamente all'APE Social, mamma che brutto nome, che sale da 1.350 a 1.500 euro. Cos'è l'APE? È l'anticipo dell'uscita dal lavoro, l'anticipo pensionistico. Chi dovesse però avere una pensione superiore a tale cifra, per esempio un'APE agevolata da 2.000 euro lordi mensili, pagherà una penalizzazione solo sulla quota, e quindi in questo caso 500 euro, che supera la soglia, quindi circa l'1% di penalizzazione per ogni anno di anticipo. L'APE aziendale invece sarà, gli oneri saranno a carico delle imprese, l'anticipo volontario costerà invece tra il 4,7 e 4,6% della pensione. Vi potranno accedere lavoratori che hanno almeno 63 anni e sono a 3 anni e 7 mesi dalla pensione, con un minimo di 20 anni di contributi, che salgono però a 30 anni e 36 per l'APE Social. Allora, Davide Colombo, che segue per il Sole 24 Ore tutti i temi della riforma delle pensioni, buonasera. Buonasera a voi. Io odio questi nomi. Comunque, l'APE Social, che detto così sembra un drink. Allora, l'APE Social chi riguarda? Perché qua, secondo me, si sta creando anche un po' di confusione tra i lavori usuranti, macchinisti, autisti, maestri d'asilo, settore dell'edilizia. Poi c'erano tutti quelli che potevano aderire, i disoccupati, le persone invalide o che hanno appunto carico di invalidità e senza reddito, lavori con carichi di cura legati alla presenza di parenti di primo grado con disabilità gravi. Allora, è questo l'APE Social? Sì, sostanzialmente è questo che dici tu. La piccola confusione che probabilmente si è ingenerata è la platea dei cosiddetti lavoratori gravosi. Nel corso del confronto con i sindacati si era partiti da una richiesta sindacale di ampliare la platea degli usuranti, cioè di lavoratori impegnati in attività usuranti che sono già classificate, che sono già riconosciute nella normativa vigente, ma per uscire in anticipo occorre superare dei paletti molto stretti, uno dei quali è che anche l'ultimo anno di lavoro che hai fatto è effettivamente in attività usuranti, e chiaramente in questa situazione rientravano molto in pochi, tanto è vero che la normativa sugli usuranti finora ha consentito poche uscite rispetto a quelle che erano state stimate. Tu stai dicendo che macchinisti, autisti, settore dell'edilizia, esatto, infermieri, addetti alle sale operatorie, siccome, se ho ben capito, per accedere all'APE Social, cioè all'anticipo pensionistico con questi vantaggi, diciamo, tu devi dimostrare che anche l'ultimo anno di questi 30 anni, se ho ben capito, sono 30 anni, no, di contributi. Se sei, allora, se sei un lavoratore usurante, impegnato in un'attività usurante, per esempio uno che lavora in una cava, ecco, può uscire con fino a 2 anni e mezzo di anticipo, con la normativa vigente. La novità per lui sta nel fatto che questa possibilità gli è riconosciuta anche se l'ultimo anno che ha fatto non lo ha fatto lavorando proprio in cava, perché ma magari facendo un'attività più leggera, perché avviene normalmente, avviene così. Che uno cerca di sopravvivere almeno negli ultimi mesi, certo, o anni, diciamo, di attività usurante. Questa riguarda gli usuranti. Invece i social sono delle i gravosi entrati nell'app social è un'altra serie di categorie, per esempio dicevi tu prima gli infermieri di sala operatoria, ai quali viene riconosciuta una chance di entrare in app social se hanno almeno 36 anni di contributi versati, esattamente come gli usuranti. Cioè l'idea era: non allargo la platea degli usuranti, faccio entrare qualche tipologia in più nell'app social, e questo è stato il punto di equilibrio che hanno trovato. Mi chiedono se con la legge 104 sia diritto. Io ho capito di sì, cioè sì, tutti quelli che hanno carichi di cura legati alla presenza di parenti di primo grado con disabilità gravi, quindi immagino che abbiano chiesto la 104, vanno in automatico nell'app social? Sempre che abbiano i requisiti che dicevamo prima, cioè almeno 30 anni di contributi e che rientrino nelle due fasce di reddito che abbiamo detto. Stiamo parlando di una misura sperimentale, 1951-1953 sono i due anni di partenza. L'APE social, diciamo una cosa in più, rispetto all'APE aziendale e all'APE volontaria, che sono due anticipi, due prestito ponte, questa è una prestazione assistenziale che verrà erogata dall'INPS. Cioè, per esempio, sono un lavoratore disoccupato del 1951, la NASPI mi è finita, ho un ponte con l'APE social per arrivare alla pensione. Se la mia pensione lorda è inferiore a 1.500, non pago nulla. Se è 1.600, sui 100 euro in più dovrò partecipare in piccola quota al rimborso nel ventennio di pensionamento. Però per far capire a tutti, scusatemi, mentre l'anticipo volontario, l'APE aziendale, l'anticipo volontario ha una penalizzazione, nel senso che tu anticipi la pensione che costa un po' meno del 5%, se ben ricordo, no? E vi possono accedere i lavoratori che hanno almeno 63 anni di età e sono a 3 anni e 7 mesi dalla pensione, con un minimo di 20 anni di contributi. Questa è la parte volontaria, quella tra virgolette in cui tu hai un vantaggio perché vai in pensione prima, hai uno svantaggio perché si riduce il tuo assegno pensionistico di quella montare, e lì uno fa un calcolo sulla base della sua vita, dei risparmi, di altre alternative offerte che può avere nella vita. Invece l'APE social riguarda appunto lavori usuranti, i lavori gravosi, come li chiamavi tu, e tutte le persone che hanno per esempio le condizioni di invalidità, disoccupazione o 104, a patto che tu abbia 30 o 36 anni, giusto? Esatto. Di contributi versati, che non sono pochissimi, ma il vantaggio lì è che la penalizzazione è bassissima. Abbiamo fatto un conto, Davide, che se uno avesse, diciamo, 1.500, avesse 2.000 euro lordi mensili di pensione, dovrebbe pagare 500 euro, cioè contribuire sulla fascia da 1.500 a 2.000, cioè quel delta lì, più o meno l'1% di penalizzazione per ogni anno, no? Si è parlato di non più di un 1% per ogni anno di anticipo. Naturalmente questa è una cosa che quando vedremo il testo la potremo confermare o meno. Certo. Comunque diciamo che è stato esplicitato che siamo attorno a questo ordine di grandezza e molto lontani quindi dal 4,6-4,7% dell'APE volontaria. Allora, su questo Renzi, che ha spiegato appunto la parte fondi per l'APE e le pensioni basse nella manovra. Noi siamo contenti di aver fatto l'accordo con il mondo dei pensionati e con i soggetti sindacali, che siamo rimasti sia loro che noi sorpresi di aver fatto un accordo. Tra l'altro avevamo chiuso a 6 miliardi di euro e poi in realtà sono 7, 1 e 9, 7 sul triennio, 7 miliardi sul triennio, 1 e 9, 2 e 5, 2 e 6, e portano alla 14ª per le pensioni basse e all'APE in pensione prima. Come funziona l'APE? Se tu non hai titolo per accedere alla cosiddetta APE social, che sembra una marca della Piaggio ma è l'anticipo pensionistico, puoi andare in pensione un anno prima rinunciando a poco meno del 5% dello stipendio, cioè vai in pensione col 95%, poco più, della tua pensione per 20 anni. Ovviamente sono valutazioni da fare, non è che nessuno viene mandato via, però chi vuole andare via perché c'ha un problema può farlo. Allora, ci chiedono da un lato i lavoratori precoci, e dall'altro, e su questo concluderei, invece confermo che nel pacchetto presente in manovra delle pensioni è previsto anche l'ampliamento a 3.300.000 pensionati, per un totale di 3.300.000 della quattordicesima, e poi vabbè, il cumulo gratuito dei contributi versati a enti diversi e l'equiparazione della no tax area a tutti per a quota 8.125 euro i lavoratori precoci. Davide. Sì, no, ai lavoratori precoci appunto viene riconosciuto la possibilità di ritiro anticipato con 41 anni di contributi per coloro che hanno almeno un anno di versamenti prima di aver compiuto i 19 anni. Uh-huh. E l'altro riconoscimento, diciamo, è che se va in pensione in quanto lavoratore precoce prima dei 62 anni, non è più la penalizzazione che era prevista dalla riforma Fornero. Questa penalizzazione non è mai entrata in vigore, è stata, diciamo, posticipata anno per anno dal 2012 a oggi, ora viene cancellata strutturalmente, per cui viene sostanzialmente riconosciuto un canale di uscita anticipato per queste platee di lavoratori precoci che però devono avere almeno 12 mesi di contributi versati prima della maggiore età, insomma. E questo per quello che riguarda appunto i lavoratori precoci, complessivamente sono 7 miliardi per 3 anni. Scusami Davide, ma bastano? Ma questo appunto, quando vedremo la relazione tecnica con le curve di spesa, per esempio il cumulo gratuito dischiude un canale di uscita importante, perché si tratta di molte persone che potrebbero avere raggiunto uno dei due requisiti, o l'anticipata o la vecchiaia, prima di quello che avevano calcolato finora. Per cui ci tratta di capire le curve di spesa, perché in alcuni casi sono piatte, per esempio le quattordicesime sicuramente possono avere un andamento abbastanza piatto. Mm-hmm. Questo 700-800 milioni di partenza potrebbe essere costante nei primi 2-3-4 anni. Probabile invece che curve come i precoci o i cumuli gratuiti abbiano una fase ascendente, cioè nei primi anni partono basse e poi salgono, perché lì sono corti che si avvicinano e ampliano l'uscita, per cui bisogna vedere. Ok, e invece vedo alcuni che mi dicono: ma come fa il governo a mettere i 15 miliardi di mancato aumento dell'IVA nelle entrate? No, ma non abbiamo mai detto una cosa del genere, infatti non li mette nelle entrate, li mette nelle uscite. La sterilizzazione dell'aumento dell'IVA costa 15 miliardi, è una voce in uscita, non una voce in entrata. Grazie Davide Colombo, traffico. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barigioni. Allora, la borsa adesso e poi la fusione popolare di Milano, Banco Popolare, e poi la correzione con l'agenzia delle dogane. Mi citate l'articolo di Luigi Zingale su Sole 24 Ore e l'importanza che il gruppo fughi i dubbi e qualunque dubbio sulla attendibilità e sul prestigio del marchio. Sono d'accordo al 100% con Zingale. Cioè, vedete che vi dica, io ci lavoro qui e è un po' come chiedere all'oste se vuole che sul ristorante non alleggino dubbi. È ovvio, siamo tutti d'accordo su questo e tutti vogliamo che non vi siano dubbi su Sole 24 Ore. Lo dico perché mi state scrivendo su questo. Andiamo sulla borsa: più 0,20% Milano, meno 0,40% Parigi, meno 0,70% Francoforte, meno 0,90% Londra, meno 0,1% il Dow Jones. Allora, generali più 2,40%, Leonardo Finmeccanica più 2,30% come Telecom Italia e Unipol Sai, e anche Unicredit più 2,1% Pop Emilia Romagna e più 1,70% Unipol. Siccome parleremo dopo il GR24 proprio di Pop Milano e Banco Popolare, chiedo a Paolo Paronetto di concentrarsi sugli altri. Radio Corri sulle 24 ore ovviamente. Buonasera Paolo. Buonasera a te e agli ascoltatori. Unicredit da un lato e Telecom dall'altro. Sì, beh, diciamo che comunque l'intero settore bancario sì. ha risentito del via libera alla fusione di cui parlerete dopo, e in questa ottica si sono messi in luce soprattutto titoli come Banca Popolare dell'Emilia Romagna, che ha rallentato sul finale ma comunque ha guadagnato oltre il 2%, e fuori dal FTSE MIB il Credit Valtellinese, che è salito addirittura dell'8,6%. Sono infatti alcuni dei titoli che secondo la speculazione delle banche, che secondo la speculazione sono candidate a, a essere in a partecipare a nuove operazioni di M&A dopo quella che appunto si è chiusa con successo tra BPM e Banco. E tra gli altri bancari Unicredit è salito del 2,28%. In cioè per caso, capire, il mercato scommette sì. in un Credito Valtellinese che va con Popolare dell'Emilia Romagna, che c'erano stati avvicinamenti passato, mentre vedo che, visto che stiamo parlando della Valtellina, anche la Pop di Sondrio oggi si è mossa molto bene, più 5,30. Esattamente, l'altra ipotesi è una fusione tra le due Valtellinesi, anche se proprio la Popolare di Sondrio è sempre stata molto sì, restia. Ci sarebbero più sovrapposizioni, mentre con la Popolare Emilia Romagna non ci vuole un genio per capirlo, che tra la Valtellina e diciamo l'Emilia ci sono meno sovrapposizioni come sportelli. Prego. Esattamente, Unicredit, dicevamo, sabato ha confermato le trattative in corso per la vendita della, del 30% o comunque della controllata polacca Bank Pekao, pur precisando che non ci sono certezze su come andranno queste trattative con l'assicuratore polacco PZU, ma comunque la conferma della trattativa ha sostenuto il titolo in avviato del 2,28%, e invece è andato un po' peggio UbiBank, che si è fermata sulla parità e sul finale. Naturalmente il titolo sconta l'ipotesi che vengano acquistate tre delle quattro good bank che al momento sono sul mercato, tutte tranne Cari Ferrara, e in questa ipotesi l'amministratore delegato Victor Massia venerdì non ha escluso che il titolo possa lanciare un aumento di capitale, sempre a patto che l'operazione crei valore per gli azionisti, cosa che almeno gli analisti ritengono abbastanza incerta. Ultimo titolo, Leonardo Finmeccanica, che è il secondo miglior titolo. Sì, Leonardo Finmeccanica è salito fin dall'avvio, ha chiuso in rialzo del 2,33%, e il titolo ha beneficiato qui della notizia che ci sono colloqui costruttivi con Airbus, secondo quanto proprio annunciato dallo stesso numero uno di Airbus, sulla via setto della joint venture che esiste tra le due società nel settore dei missili, un nodo che deve essere sciolto da tempo, e che ci sono appunto colloqui costruttivi su questo, e quindi il titolo ne ha beneficiato. Allora andiamo sui migliori e peggiori in assoluto, di chi è perso, abbiamo detto anche Campari meno 2,30, Recordati meno 2, Azimut meno 1,90, Ferragamo meno 1,60, Terna meno 1,30, migliori e peggiori appunto Gruppo Waste Italia più 13, Gala più 9, Credito Valtellinese più 8,60, fronte opposto Innovatech meno 9, Industria e Innovazione meno 5,30, Energy Lab meno 3,70. Per cento Lazio meno 3,60%. Cito anche tra chi si è mosso molto bene oggi Mondadori Editore più 6,20%. Gli energetici, mi chiedete, deboli oggi: Eni meno 0,80, Enel meno 0,40, Saipem meno 0,34%. Non è arrivata infatti una spinta dal prezzo del petrolio, che anzi, come WTI, è sceso sotto i $50 al barile, 49,60 dollari al barile. Grazie a Paolo Paronetto, GR24, e poi parliamo della fusione BPM Banco Popolare. Sono Giovanni Minoli, tutti i giorni Mix 24 in onda dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 10.30 con Mario Secchi. Vabbè, però io l'avevo detto, eh. E Pietrangelo Buttafuoco. Ecco la risposta a quello che chiedeva Mario prima. I faccia a faccia, le inchieste, dentro la notizia e gialli della storia. Poi i libri, gli appuntamenti, il cinema, tutti i venerdì con Alessandra Fiori e Alessandra Cravetto. Ciao Ale. Ciao Ale. Ciao Ale. E la musica di Franco Schipani. Iniziamo con la Hit Parade. Da quest'anno, oltre agli interventi in diretta, lasciate i vostri commenti, segnalazioni e critiche anche alla nostra segreteria telefonica al numero 02 46 52 41 83. Vi risponderemo. Mix 24, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.30. Il segnale orario vi è offerto da Tecnologia e logistica di magazzino Modul Block. Avanti anni luce. State ascoltando un programma offerto da SwissQuote.it, un leader globale nel trading sul Forex. Focus Economia. 18 e 8 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, dopo un avvio che sembrava tumultuoso e uno sviluppo molto lento, la prima delle quella già ormai nota, arcinota, delle fusioni a cui tutto il mondo delle banche popolari sopra un certo valore di asset, se non ricordo male 8 miliardi, deve sottoporsi per legge, è partita. E infatti adesso un po' come avviene, non so se l'immagine sia troppo prosaica, ma insomma, quando c'erano sette spose per sette fratelli e certe danze folcloristiche, una ballava, la prima coppia è partita, e più vai avanti con questa operazione, più poi l'ultima coppia sarà de facto obbligata a sposarsi di fatto. Adesso, al di là della battuta, era la fusione più conosciuta e più scontata. Non è stato scontato il voto alla Pop di Milano, perché mentre al Banco Popolare il 99% ha votato sì, alla Pop Milano il 71%. Il mercato sta premiando però soprattutto il Banco Popolare, che appunto, come ricordavamo prima, ha guadagnato alla fine lo 0,80%, mentre la Pop Milano perde il 3%, dando la sensazione che questo matrimonio ci guadagni di più il Banco Popolare rispetto alla Pop Milano. Che è la prima domanda che giro a Marco Ferrando, che ha seguito, anche andando alle assemblee, tutto questo fine settimana. Buonasera Marco. Buonasera a voi. Allora, premia di più il Banco Popolare, come se ci guadagnasse più il Banco Popolare che la Pop Milano? Ma sì, questo è il sospetto che ha aleggiato su questa operazione dall'inizio, perché BPM, dopo i problemi di qualche anno fa, è stata rimessa in carreggiata, come dice il nome, basata su Milano, e questo sicuramente l'ha aiutata. Il banco, insomma, ha qualche problema in più, in parte anche storicamente, non a caso BCE ha chiesto di fare un aumento di capitale da 1 miliardo. I movimenti di borsa di oggi in realtà sono anche in parte da ricollegare ai multipli della conversione, nel senso che col voto di sabato, il doppio voto, di fatto ormai è caduto l'ultimo ostacolo, si va verso l'integrazione, di fatto il valore delle due azioni si sta allineando a quello che è il concambio tra i due titoli, quindi di fatto era abbastanza prevedibile. Certo è, dai movimenti di oggi abbiamo la conferma che su BPM c'era qualche sospetto in più sul fatto che l'operazione non sarebbe andata in porto. Infatti quel 71% che citavi è evidentemente un risultato inequivocabile, ma non dimentichiamo che servivano i due terzi, quindi si è vinto di 500 voti, ha vinto di 500 voti fusione. Ecco perché c'era chi scommetteva che, come altre volte nel passato, gli azionisti, alcune parti degli azionisti della Popolare di Milano avrebbero fatto una sorpresina. Sì. All'obiettivo finale. Nasce un gruppo comunque che a questo punto nasce, potrebbe essere ancora integrato, ma insomma è il terzo gruppo bancario in Italia, 4 milioni di clienti, capitalizza 4 miliardi, 170 miliardi di asset, e quota di mercato più dell'8%, primo gruppo in Lombardia con il 15%. Il tema delle sofferenze, dei non performing loans, perché lì sappiamo che in dote, se non ricordo male, ne portava un pochino di più il Banco Popolare rispetto alla Pop Milano. Sì, ne portava molti di più, anche perché il banco è più grande, quindi era fisiologico che andasse così. Nel piano c'è questo capitolo che prevede uno smaltimento di 9 miliardi di crediti deteriorati, è uno sicuramente dei banchi di prova più impegnativi che vedrà coinvolto il nuovo gruppo. Non dimentichiamo che la BCE su questo è da sempre molto attenta, in particolare in questa fase di revisione degli SREP, che sono i requisiti di capitale minimi per tutte le banche. Insomma, è un tema su cui, secondo quanto ci risulta, c'è molta attenzione, quindi per un gruppo che sta nascendo e che ha avuto i suoi problemi proprio di tipo autorizzativo su questo tema, sarà sicuramente vigilato molto molto da vicino. Allora, su questo la nostra Livia Zancanera ha raggiunto Umberto Ambrosoli, oltre che essere figlio di Ambrosoli, qualcuno se lo ricorderà anche perché fu candidato alla presidenza della Regione Lombardia e adesso ha già dato le dimissioni dal consigliere regionale lombardo del Patto Civico. Perché? Perché diventerà il presidente della nuova BPM SPA, come ha spiegato alla nostra appunto Livia Zancanera. fra un anno circa si tornerà nuovamente a votare per il Consiglio regionale e per la Presidenza della Regione, e sono fortemente convinto del fatto che la nuova sfida per il 2018 non debba essere una riproposizione di quella del 2013, e siccome il candidato del centrodestra penso che sia lo stesso che oggi governa la regione, il candidato del centrosinistra dovrà essere diverso. Né era mio interesse continuare l'esperienza nella prossima legislatura come consigliere regionale, perché è un'esperienza interessante, ma penso di averla già fatta a sufficienza. Io non mi ero candidato per fare consigliere regionale, mi ero candidato per fare presidente della regione, avevo delle idee di amministrazione della regione che dal ruolo di consigliere regionale non puoi neanche, tanto più di opposizione, non puoi neanche lontanamente pensare di applicare. Lei è stato indicato come presidente della nuova BPM, sabato ci sono state le due assemblee, lei ha annunciato, come aveva già dichiarato per altro, le sue dimissioni subito. Allora, l'hanno molto criticata per la questione del conflitto di interesse. Questo conflitto di interesse alla fine c'era? Questo conflitto di interesse non arriva neanche lontanamente ad esserci per una ragione semplicissima. La Banca Popolare di Milano, che nascerà col 1 gennaio del 2017, è molto diversa rispetto all'attuale perimetro della Banca Popolare di Milano, e tutte le osservazioni, devo dire alla fine neanche tantissime, che ho visto su potenziali situazioni di conflitto di interesse confondevano l'attuale perimetro della Banca Popolare di Milano con quello che invece ci sarà nel 2017, che sarà limitato alla parte retail della banca, quindi tra virgolette agli sportelli e ai rapporti con la clientela, non a tutta l'altra attività bancaria che invece in qualche articolo critico veniva posto a fondamento delle eventuali situazioni di conflitto di interesse. Ma torno a dire, è una situazione che se anche dovesse essere presa in considerazione dal punto di vista di eventuali conflitti di interesse, lo sarebbe dal 1 gennaio del 2017. Io invece già da adesso, cioè dal momento in cui quella che era solamente un'ipotesi è destinata a concretizzarsi a far data dal 1 gennaio del 2017, faccio un passo indietro nell'assemblea regionale. Allora, così Ambrosoli, Marco. Ma sì, tutto vero, c'è da dire che forse di questa puntata avremmo anche fatto volentieri a meno, nel senso che la storia, cioè BPM è sicuramente una bella banca, una storia gloriosa, hanno festeggiato l'anno scorso 150 anni, sul capitolo nomine, spartizione dei posti, se vogliamo, era sicuramente la parte di cui sentiremo meno la mancanza. È vero. E non a caso sabato era un po' il tema che aleggiava, questo voto capitario molto sentito nel bene e nel male, diciamo a pelle. Forse, insomma, il fatto di mantenere questa bancarete è stato un contentino all'anima storica, ad un'anima storica della banca. Star qui a ragionare di poltrone, eccetera, francamente, appunto, anche ripeto, no, come dicono i ragazzi. Anche no. Questo però, con questo concludiamo, sta scatenando, già ne parlavamo prima durante il commento sulla borsa, chiaramente le ipotesi, quindi se erano sette spose per sette fratelli, adesso sono sei spose, adesso, il numero lo dico citando il film chiaramente, però insomma si sta restringendo l'alveo delle altre, delle future nozze. Quale dovrebbe essere la prima? Buona domanda. Oggi la borsa scommetteva molto sul CREVA, il credito valtellinese, con Popolare Emilia Romagna, per esempio. Sì, infatti, diciamo innanzitutto che non tutte le spose sono belle, BPM probabilmente era la più bella, ma lo dicono gli analisti, non lo diciamo noi, stando ovviamente ai conti. Creva e Biper, quindi Popolare Emilia Romagna, sono due delle banche che ancora non si sono trasformate. Da tempo stanno così cercando di capire se c'è sentimento, lo scopriremo evidentemente a breve. Certo è che tolta BPM, tolta Banco, UBI che sta lavorando sulle Good Banks, le due venete che sono nelle mani di Atlante, chissà che ne sarà, le combinazioni possibili non sono tantissime, e Biper, Creval sicuramente statisticamente una di quelle più, non diciamo probabili, ma possibili. Ma possibili. E su questo poi vedremo, adesso vedo che ci sono anche giudizi degli analisti sull'operazione, comunque l'operazione ormai adesso andrà avanti, e faccio notare che prima di fondersi Banca Popolare capitalizzava 2 miliardi di euro e aveva attivi per 120 miliardi, BPM capitalizza 1 miliardo e 8 e attivi per 50 miliardi, era più grande il Banco Popolare, ma se mi passano a Verona non si arrabbiano, era un po' più sana la Popolare di Milano dal punto di vista delle sofferenze e diciamo dei corti e dei rush patrimoniali. Non dimentichiamo che oggi il banco quota 2 miliardi, cioè capitalizza 2 miliardi dopo averne raccolto uno prima dell'estate. Quindi quando siamo partiti a gennaio il delta fra le due banche era molto più ampio. E quindi questo è l'asse Milano, Milano-Verona che si è chiaramente creato. Ancora vedo tanti messaggi, non posso rispondere a tutti. Devo dire sui dipendenti, beh, insomma, inutile girarci attorno. Di solito quando ci sono fusioni bancarie qualche riduzione dell'organico c'è, Marco. Sì, il tema è stato dominante soprattutto a Milano. La fusione è stata voluta da tutti i sindacati presenti, c'era Sileoni, c'era Masi, quindi Fabi e Wilca. La loro posizione è: almeno la governiamo, c'è un piano di esuberi concordato con la banca, diciamo la macelleria sociale dovrebbe essere sicuramente evitata perlomeno. Allora, grazie Marco Ferrando. 349-238-6666 per sms e whatsapp, poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Andiamo sul traffico. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta Focus Economia. Allora, adesso parliamo dell'agenzia delle dogane. Voi direte che cosa c'entra l'agenzia delle dogane? No, c'entra perché da un lato venerdì scorso si è beccata al primo posto della nostra poco invidiabile classifica sugli sprechi della pubblica amministrazione. E poi perché a sto punto, se non è vero, noi siamo contenti, perché la cifra era grossa e valeva 73 milioni e 200, sostanzialmente 33 milioni e 220 mila euro più IVA. Il valore del palazzo, della sede, che secondo quanto riportato da giornali vari avrebbe voluto comprare l'agenzia delle dogane dei monopoli diretta da Giuseppe Peleggi, e quindi comprare uno stabile, tra l'altro, in cui veniva tirato in ballo anche l'ex ambasciatore Giovanni Castellaneta, perché il presidente della società venditrice che si chiama Torre SGR, il 62% appartiene a Fortezza Re, gruppo Fortress Lussemburgo, restante 37% invece di Unicredit. E ci chiedevamo come fosse possibile che l'agenzia delle dogane spendesse 73 milioni di euro quando sappiamo che a Roma ci sono circa 1 milione di metri quadri di immobili pubblici sfitti, ex ospedali, pensate al Forlanini, il San Giacomo, o tutti di proprietà della Regione Lazio, per non parlare poi del patrimonio del comune. E la domanda è stata: ecco perché si è beccata al primo posto, ma com'è possibile che tu spenda 73 milioni senza verificare gli altri immobili? Allora ci ha chiamato il direttore dell'agenzia delle dogane del monopolio, Giuseppe Peleggi, appunto, che ringrazio per essere in collegamento. Buonasera. Buonasera, grazie dell'opportunità. Allora, ci dica che non è vero. Allora, vi dico una cosa: innanzitutto non ho comprato nulla. Vabbè, però vorrebbe. Mi piacerebbe comprarla. Allora... mettiamola così: mi piacerebbe ricomprare la sede che dal 93 è la vecchia sede delle dogane. Non è un nuovo palazzo, no? Sono quattro palazzine dove sono collocate più di 900 persone. Ed è la sede storica dell'Agenzia delle Dogane, che è stata venduta con la legge finanziaria del 2003. Per far cassa, immagino, però, mi scusi, no? All'epoca per fare cassa, sì. Poi però c'è stata una norma nel 2010 che dice che per ridurre i costi, tutto sommato, gli enti previdenziali potrebbero acquistare immobili adibiti a questi che oggi sono in locazione, che sono immobili pubblici dove sono collocate le amministrazioni pubbliche. Quindi questi immobili erano stati collocati, giustamente secondo me, dal Demanio tra gli immobili acquistabili dall'INAIL. Bene? L'INAIL fa l'assicuratore di fatto, e quindi faceva una operazione in cui poi comprava questi immobili e mi avrebbe fatto pagare un affitto. A questo punto, avendo dei risparmi d'agenzia fatti con i tagli interni, cumulati da un po' di anni, ho detto: ma là comunque sia pagherei un affitto, anche se minore di quello che va a un privato, però ho detto: ma è possibile invece acquistarlo direttamente col prezzo congruito, con i revisori che controllano? È tutto scritto e trasparente nella delibera che sta nel nostro sito. Ovviamente, guardi, è affascinante il meccanismo, perché ci sono delle regole di pesi, contrappesi e controlli. La cosa però affascinante, mi scusi direttore, io vorrei capire. Lei dice, se ho ben capito, mi conviene come investimento di più comprarlo che pagare l'affitto, capito bene? Beh, io in 10 anni potrei ammortizzarlo. Però qualsiasi, perché a questo punto l'ho fatto un salto? Se lei si trovasse in questa condizione, sua moglie la metterebbe spalle al muro. No, ma direbbe addirittura, con i tassi che stanno oggi fai un mutuo. Noi non possiamo fare mutui, è bene che sia così, siamo enti pubblici non economici. Però avendo dei risparmi da parte, sua moglie le direbbe: ma perché dobbiamo continuare a pagare l'affitto? E i nostri figli che gli lasciamo. Ok, però mettiamo così, va bene, usiamo questo esempio. Se però io avessi nella mia famiglia degli immobili che sono sfitti da riutilizzare, direi a mia moglie: no cara, non vado a comprarmi un nuovo immobile, rimetto a posto cose già di nostra proprietà. Un attimo direttore, perché il punto era non tanto quanto corretto fosse decidere se continuare a pagare un affitto per l'agenzia delle dogane, dei monopoli, o comprarsi un immobile da 73 milioni di euro, ma perché comprarlo? Cioè, il milione di metri quadrati, io lo so, lei mi dirà: ma guardi che alcuni vanno ristrutturati, guardi che alcuni vanno, non sono pronti. Ok, ma prima avete fatto una cernita degli immobili di proprietà? Facciamo noi, l'ha fatta Aldemagno, l'ha fatta Aldemagno prima di noi, abbiamo guardato i collocamenti. In più c'è una norma, che lei sa benissimo, che parla di decentramento e delocalizzazione delle amministrazioni pubbliche. Cioè, io guardi, le dico una cosa, ho un ricordo. Nell'88 mi trovavo alla Commissione Bilancio Senato. Il presidente di allora, che era Beniamino Andreatta, eravamo io e Piero Giarda. Fece un discorso, c'aveva un problema, diceva: ma è possibile che da Bologna, lui è bolognese, all'università, non riusciamo a tirar via una caserma che sta al centro di Bologna? E io faccio la stessa domanda. 900 persone che oggi sono in Croce Laurentina da Corda Anulare, dovrei prendere e portarle là. Sto in un comprensorio appiccicato a Sogei, dove ho fibra ottica, banda larga con 4 giga al secondo. Perché ho tutti i dati sul commercio estero in telematico. Ecco, io dovrei cablare una cosa al centro di Roma e spostare 900 persone e poi fa tutti i lavori di ristrutturazione. Hai idea che significa fare ristrutturazione ai Fornanini? No, ma dico, non c'è solo Fornanini, però ci sono... Vabbè, la Fiera di Roma, come dice Rizzo, ma la Fiera di Roma sono capannoni. Per farli diventare ufficio, scali ed uscite, tutte le cose messe a norma. Ma è una cosa normale? Pensa che costa di meno operazione? No, io non oppure mi occupo... bisogna buttarli giù i rifali. Io manco, non faccio, forse Rizzo l'avrà capito qualcosa più di lui. No, ma lasci stare Sergio Rizzo, lei ce l'ha con Rizzo, perché Rizzo ha tirato fuori la cosa sul Corriere. No, però oggettivamente, se fa un articolo e uno si trova da Torpagnotta, cioè dove c'è un ufficio che non è una sede del prestigio, è un ufficio, e sta affacciato sulla Corda Anulare, e in un articolo, in una colonna, mi trovo accanto a Bush a Washington, lei capisce che quell'articolo mi lascia un po', no? No, vabbè, ho capito, però... È qualcosa che non gira. Sì, però, direttore, adesso, noi l'abbiamo ospitata perché dice, io non l'ho ancora comprata, io non l'ho ancora comprata, e noi siamo contenti, siamo contenti che lei non l'abbia ancora comprata. Guardi, però aspetti, non c'è un atteggiamento populista, demagogico, non spendete. È chiaro che... Se l'unica alternativa dovesse essere continuare a pagare l'affitto o comprare un immobile che te lo ripaga in 10 anni, anch'io non sono un genio, diciamo, sulla matematica, però anch'io direi va bene, andiamo a comprare l'immobile. Sa qual è il sospetto? E su questo io la ringrazio per essere venuto e la saluto. Il sospetto è che lei mi ha citato il Forlanini, il San Giacomo, che veramente questa analisi sia stata fatta bene o no, perché tra i due estremi capisco benissimo ricablare un palazzo spendendo in ristrutturazioni o comprare un edificio nuovo della Torre SGR, appunto, io spero sempre che vi possa essere una soluzione un po' più pragmatica, di fine tuning, cioè in cui ci sia qualche immobile dello Stato o del Comune o della Regione utilizzabile, perché anche tirar fuori 73 milioni così, un po' come dite voi, da qualche parte d'Italia, mi ruga, no? Direttore? Sì, pronto? Prego. Finirebbero comunque al patrimonio dello Stato e avremo risparmio secco dell'affitto. E poi al centro forse sarebbe bene ristrutturarli e venderli come alberghi, non permetterci pubblica amministrazione. Vabbè, adesso ho capito cosa fare degli immobili del centro, per carità, si possono fare alberghi. Poi il confronto elementi commerciali. Abbiamo fatto tutti i confronti possibili. Io ho girato fino a Fiumicino, ancora più decentrato, per cercare un immobile che contenesse queste persone e che fosse parimenti cablato, oppure mettendoci sopra la spesa della cablatura, eccetera, eccetera. Ma in realtà veniva bene così. Cioè, sia il demanio che il territorio, che noi, la valutazione sulle microzone, eccetera, eccetera, alla fine ci ha portato a dire che era conveniente questo acquisto. Cioè, era conveniente a questo punto non venderlo, però, perché giustamente gli ascoltatori mi dicono: ma quanto l'avete venduto? L'abbiamo come paese venduto in quegli anni. Direttore, ho capito, devo chiudere perché è veramente finita la puntata. Grazie anche al direttore dell'agenzia delle dogane e dei monopoli per questa precisazione, che almeno l'edificio non è stato comprato. Giuseppe Peleggi, noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Intanto, da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata. Radio 24, la passione si sente.